Capitolo 33. Danny, dove sei, cara? Nessuna risposta. La stanza è vuota, in penombra. Il letto ancora fatto. Natalia Korczak indietreggia di un passo e richiude la porta. Deve essere con i conigli, dichiara convinta a Morris Leitesen, che le porge il braccio per sostenerla. Lei preferisce avanzare da sola, anche se il dolore ai piedi non le dà tregua. Puntuale, come le prime nevicate e le temperature a poche tacche dallo zero. Zoppica, trascina le suole e per quanto si sforzi di non darlo a vedere, quell'andatura la fa sentire ridicola. Il bimbo di Cuoccala, ormai trentenne, ha gli anni che avrebbe il suo primogenito se non fosse morto in fasce. L'età giusta per essere ingaggiato come bastone della vecchiaia da una 63enne con troppi esodi nelle gambe. «Danny, c'è una sorpresa per te!» La ragazza si affaccia alla porta dello stabulario. L'odore degli animali trapela dallo spiraglio. «Ti ho portato i cristalli che mi hai chiesto nella lettera», dice Morris, offrendoli sul palmo. Danny pare una bambina che riceve in regalo polvere di stelle. Troppo incantata per ringraziare, raccoglie tra le dita una delle piccole lastre trasparenti, simili a schegge di vetro sottile. La osserva contro luce, la sovrappone a un'altra. «Era questo che volevi?» domanda a lei Leitesen. «Dalla tua lettera non era molto chiaro. Ho pensato che ti servisse del biossido di silicio, cioè quarzo». «Sono perfette!» esclama lei, come se contemplasse due gioielli. «Natalia mi ha detto che la tua radio è molto particolare. Posso vederla?» Morris chiude il pugno con i cristalli molati, come a dire che li lascerà solo dopo aver esaminato l'apparecchio. Danny lo invita a seguirla in camera. Mentre Natalia accende la luce, la ragazza si china sotto il letto. Riemerge con una scatola e la deposita sul materasso. Alza il coperchio di legno, svolge un groviglio di fili. Sono almeno una decina, ciascuno collegato a un ago di metallo. «Queste sono le antenne?» domanda Morris. «No, questi, non so come si chiamano, si infilano qui, nella pelle della testa, servono per catturare l'energia del cervello». Morris ne afferra uno e lo osserva da vicino. «Conosci gli esperimenti di Pravdic e Neminsky? Una quindicina d'anni fa, con un apparecchio simile, ha registrato l'attività elettrica nel cervello dei cani». Danny raggruppa i fili e li dispone di lato per mostrare la plancia dell'apparecchio. Impugna una manopola con scala graduata e la fa girare avanti e indietro. E «questa serve a ingrandire l'intensità dell'energia». «Un amplificatore», mormora Leitesen tra sé. «E i cristalli di quarzo?» Danny tocca una piccola nicchia rettangolare. «Vanno messi qui dentro. Fanno passare i pensieri e trattengono invece le energie che rischiano di...» Cerca la parola, ma ci rinuncia e coglie quella che le viene. «Sporcarli!» «Un filtro passabanda», annuisce Morris, mentre lascia cadere sulla coperta i cristalli rimasti nel pugno. «Infine», continua Danny, «questo cavo trasmette l'energia all'antenna, che la trasforma in onde capaci di viaggiare nello spazio. Con un ricevitore adatto le si può raccogliere e trasformare in modo che le onde ritornino pensieri». Morris studia i contatti dell'antenna. «Avevi ragione», conclude. «Funziona come una radio telepatica. Una neuroradio. Ma l'elettricità del cervello, se davvero esiste, ha una potenza minuscola. Per trasformarla in onde che vadano nello spazio, il tuo amplificatore deve essere prodigioso». «Utilizza l'energia del nulla», si illumina Danny. «Ah, già», annuisce Morris. «Com'era? In questo pugno ce n'è abbastanza da far evaporare tutti i fiumi della Russia. Fantastico». Le porge la mano tesa. «Vieni alle nostre riunioni una di queste sere. I miei amici saranno entusiasti del tuo apparecchio». I due si salutano. Danny arrotola i fili e li ripone nella scatola. Sulla porta Natalia ringrazia Morris per aver dato corda alla ragazza. «È molto sola. Ha bisogno di condividere i suoi sogni con qualcuno». «Chi non ne ha bisogno?» dice Leitesen. Abbraccia la capo infermiera e la bacia tre volte sulle guance. «Quella macchina è davvero ingegnosa». Una strizzata d'occhio. «Chissà, potrebbe anche funzionare». Alle 9 di sera, Sasha non è ancora rientrato dalle celebrazioni. Natalia ha cenato sola. Oggi è festa e la mensa dell'istituto non offre il solito pasto di fine lavoro. La sala comune è vuota, silenziosa. Danny è talmente presa dalla sua neuroradio che ha preferito digiunare, piuttosto che interrompere la calibratura dei filtri passavanda. Certo, è possibile che Sasha abbia incontrato qualcuno e che abbiano deciso di mangiare assieme. Non è uno che ami i ristoranti, ma in un'occasione del genere può essersi lasciato convincere. Già, ma da chi? Non sono poi molti gli amici che lo inviterebbero volentieri. È così scontroso ultimamente e ancora meno sarebbero quelli contenti di farsi vedere a tavola con lui in un locale pubblico. L'avversario di Lenin, brutta compagnia nel giorno del decennale. Natalia siede allo scrittoio, accende la lampadina sotto il paralume di vetro verde. Prova a riprendere la traduzione da dove l'ha lasciata, ma il passaggio tra le parole del libro, il dizionario francese-russo e lo spazio bianco sui fogli è accidentato da dubbi e preoccupazioni. Sarà il caso di telefonare ad Anatoly? Se si fosse sentito male o avesse avuto un incidente, avrebbero chiamato dall'ospedale. Qualcuno sarebbe venuto ad avvisare. Niente notizie e buone notizie, come si dice. Però la parata è finita da almeno 3 ore. Dove può essere andato? Oltre i vetri della finestra, dalla strada, salgono rumori allegri. Un gruppo di giovani passa cantando. Il vento porta la malinconia di un'armonica. Per le vie di Mosca la festa continua. Gira voce che ci siano stati disordini sotto il vecchio Hotel de Paris, arresti nel cortile dell'università e in altri quartieri. Pare che perfino Nadia Krupskaya abbia improvvisato un comizio per l'opposizione. Ma Sasha non si mischia in certe faccende. Sul tavolino, accanto alla porta, l'ultimo numero della rivista del sindacato infermieri. Natalia pensa che la lettura potrebbe distrarla più della traduzione. È stanca, vorrebbe dormire, ma preferisce aspettare il ritorno del marito. Sfoglia gli articoli, in cerca di qualcosa che l'aiuti a restare sveglia. I titoli non sono di grande interesse. L'occasione del decennale spande retorica negli angoli più remoti. Una voce interiore le sussurra che a Sasha è successo qualcosa. Un'altra la invita a essere ragionevole. Quel ritardo si può spiegare con 1000 ipotesi più probabili di una disgrazia. Ma la prima voce non si dà per vinta. Parla col timbro di Sasha, come se fosse un suo messaggio diretto. Un pensiero inviato con l'apparecchio di Danny, un prototipo molto approssimativo perché non si capisce cosa dice. Trasmette solo angoscia, pessimi presagi senza contenuto. L'ultimo romanzo di Ehrenburg, nel vicolo Protozny, potrebbe essere un diversivo più efficace. È venuto alla luce sollevando la rivista per infermieri e ora Natalia lo sostituisce a quella. Legge un capitolo, poi si ricorda di inforcare gli occhiali. Li ha presi da poco e può ancora farne a meno, fino a quando le lettere di colpo si sfuocano e le righe del testo convergono in incroci pericolosi e incidenti lessicali. Questa volta però non è la stanchezza degli occhi a boicottare la lettura, ma quella di tutto il corpo. A metà del capitolo successivo, Natalia si addormenta. Il libro le cade in grembo. Resta la luce accesa, a vegliare, in attesa di Bogdanov. È un rumore a ridestarla, qualche ora più tardi. Natalia non se ne rende conto subito, ma l'orologio sulla credenza segna le 3 di notte. La strada è muta. Il rumore si ripete. Viene da basso. Si alza, i piedi gonfi ancora doloranti. Apre la porta del piccolo appartamento al piano superiore dell'istituto. Si sporge sulla tromba dello scalone che scende al corridoio dei laboratori. «Sasha?» domanda nel buio. La risposta è un rumore più forte. Passi di corsa, uno strepito di ferraglia. Natalia scende le 2 rampe più in fretta che può, appoggiandosi al vecchio corrimano di legno. In un corridoio nota una luce fioca che entra dall'ingresso. Un'ombra si muove. «Sasha, sei tu?» Il portone sbatte, il bagliore della strada si spegne. Natalia strascica i piedi. Trova a tentoni un interruttore e alla luce delle lampade il chiavistello della porta. Esce sul marciapiede, in vestaglia, appena in tempo per vedere Kotick saltare a bordo di un autocarro, metterlo in moto e infilare la strada deserta. Kotick? Non è sicura che fosse proprio lui. Rientra nel palazzo. E all'estremità opposta del corridoio vede una lama di luce uscire dallo stabulario. Lo raggiunge a passi lenti e spalanca la porta. I conigli e le gabbie sono spariti. «Natalia ci ha visti!» dice Kotick, fissando il parabrezza. Accanto a lui Danny si torce sul sedile per inquadrare la sagoma dell'istituto, oltre le gabbie stivate nel vano posteriore. Un uomo attraversa la strada con il passo incerto di chi vaga tra due mondi, quello reale e quello alcolico. Oltre la piazza dell'Ottobre, le abitazioni si diradano, spuntano case di legno e cortili fangosi. La griglia d'acciaio della torre Shukov domina i tetti, simile a un telescopio montato a rovescio, con la parte più stretta verso il cielo, come se il pianeta da osservare fosse la Terra. L'autocarro fila con mille scossoni sulla strada che costeggia il fiume e i padiglioni di una vecchia fiera. Danny si volta a ogni buca per tranquillizzare i conigli e controllare che le gabbie non precipitino una sull'altra. Kotick stacca una mano dal volante e indica il parco che si apre alla sua destra. «Qui potrebbe andare?» Danny scuote la testa. Un colpo di tosse le spezza il fiato, proprio al momento di parlare. Si piega sui fili dell'apparecchio radio che tiene in grembo e porta le mani alla bocca. «No», sentenzia alla fine, «dobbiamo andare fuori città». Il pilota ingrana la marcia e aumenta l'andatura. Danny ammira la padronanza dei gesti. Le pare un segno di adesione alla causa. «Non credevo che saresti venuto». «Non ti fidavi di me?» protesta Kotick. «Pensavo non volessi danneggiare tuo padre». Kotick non smette di fissare la strada. «Sai cosa sosteneva Darwin?» dice rivolto al raggio dei fari nella notte. «L'uomo non è all'apice dell'evoluzione e gli animali non sono le sue brutte copie, quindi non sono adatti allo studio della medicina per gli uomini». La Moscova si piega come un uncino e la strada la segue, rimontando un'altura. Kotick accosta sul limitare di un prato e scende. «Questa è la collina dei passeri», dice aprendo lo sportello dalla parte di Danny. «Ma adesso si chiama collina Lenin». Danny avanza sull'erba umida, fin dove il terreno cambia pendenza e scende come un argine verso la riva, dove il quarto di luna lascia intravedere un battello ormeggiato all'imbarcadero. Sull'altra sponda brillano le stelle della città, le sue torri di marzapane e le sue strade di ciottoli, tenute a distanza dall'acqua del fiume e dal declivio chiazzato di neve. Lungo la scarpata sembra di riconoscere qualche figura umana, gente che si gode la veduta o smaltisce una sbronza. «Qui staranno bene», dice Kotick, accarezzando con le dita la linea dell'orizzonte. «È ancora troppo vicino alla città», si oppone Danny. «Rischiano di fare una brutta fine». «E tu rischi di ammalarti sul serio se non rientriamo presto». Ma Danny gli sussurra di non preoccuparsi, di portarla in un posto dove ci siano campi, boschi, erba più alta e meno esseri umani. Kotick la fa risalire sul furgone, quindi si rimette alla guida e punta verso gli stagni lungo il fiume Ibiza, dove le fattorie si alternano ai boschi d'abete, ai tigli solitari, ai ruderi di antiche magioni. Suo padre lo portava lì nelle domeniche d'estate, a riconoscere piante e animali selvatici. Non ci mette piede da molto tempo, ma il posto non deve essere troppo cambiato, nonostante lo sviluppo della capitale. I terreni paludosi sono i più difficili da colonizzare. Prova a orientarsi a memoria, verso i sobborghi meridionali, fuori dai quartieri illuminati dai lampioni, con le ruote nel fango e nelle pozze. Mezz'ora dopo si ferma al confine di un prato, ma questa volta è talmente vasto che non se ne vede la fine, giusto un filare d'alberi e un abbaiare lontano, che tradisce la presenza di un casolare. Dall'espressione di Danny, Kotick capisce che la ricerca è finita. Scaricano le gabbie dal vano dell'autocarro e le allineano al di là di un fosso. Danny più volte deve appoggiare il fardello e piegarsi a tossire. Quando sono tutte in fila, dalle sbarre si alza un lieve concerto di denti che sfregano e battono. «Hanno capito», commenta Danny. «Sono felici». Apre la prima gabbia e Kotick fa lo stesso dall'altra estremità della schiera. I primi animali, benché liberi di andare, non si avventurano oltre la soglia della prigione. Qualcuno smuove la terra gelata, le orecchie dritte in attesa di segnali. Poi uno prende coraggio, saltella sulla neve, si ferma ad annusare la notte e avanza nel buio, seguito dai compagni, mentre il campo accoglie i nuovi arrivati con l'abbraccio segreto dei suoi anfratti. «Pronto? Natalia? Sono Sasha. Sì, sarò a casa tra mezz'ora. Alla Lubianca. Stanno preparando un'auto per accompagnarmi». «No, niente di grave, non preoccuparti. Tra mezz'ora sono lì». Come dici? Non sento bene, la linea è disturbata. Con Kotick? Ma sei sicura? Non credo che sappia guidare. E un autocarro dove può averlo preso? Va bene, arrivo appena possibile. Danny scala il cancello, si rannicchia in cima e atterra sulla ghiaia. Ora un recinto di ferro e mattoni la separa dalle rimostranze di Kotick, dai suoi tentativi di trattenerla. Dove vuoi andare? Se c'è un custode, metti nei guai anche me. La ragazza parla attraverso l'inferriata che blocca l'accesso alla torre radio. Devo andare più in alto degli edifici della città. Ci sono troppi sogni e pensieri qua in basso. Non era nei patti, protesta Kotick. E poi non stai bene. Devo portarti a casa. Danny si volta e avanza con la neuroradio a tracolla, fin sotto la base dell'enorme antenna. Le travi di ferro tagliano il firmamento come l'intelaiatura di una vetrata gotica. Cerchi e linee diagonali si inseguono verso l'alto, lungo gli iperbolidi sempre più stretti che formano il traliccio. Sulla cima il trasmettitore, come un angelo metallico, sorveglia la città. Danny afferra con due mani una delle travi che disegnano il profilo della torre. È gelata. Prova a tirarsi su, ma lo sforzo la costringe a un colpo di tosse e la tosse a mollare la presa. «Se cadi, t'ammazzi!» grida Kotick, senza più limitare il volume della voce. Si aggrappa al cancello, mani e piedi, deciso a scavalcare anche lui, ma si accorge di non avere l'agilità di Danny e impiega più del previsto. Quando raggiunge di corsa la base dell'antenna, le caviglie della ragazza sono già fuori dalla sua portata. Salta per afferrarla, ma stringe un pugno d'aria. «Scendi, Danny!» Lei procede come un topo sulle funi di un vascello fantasma. «Non puoi arrivare in cima, è troppo alto!» grida Kotick da basso. Dovrebbe seguirla, ma sa di non poterlo fare. Soffre di vertigini. «Non preoccuparti, mi fermo prima!» risponde lei, senza smettere di salire. Ormai ha raggiunto l'anello d'acciaio da cui parte il secondo settore del traliccio. È alto da terra quanto un edificio di 6 piani, ma Danny continua a salire, con l'agilità di un funambolo. A quota 30 metri soffia un vento freddo, che a livello del suolo era appena un refolo. In basso sembra riscorgere un velo di bruma disteso sopra la città. Mosca è un immenso lago elettrico, tremolante di luci e grandi isole nere. Un caos di bagliori a grappoli e sparsi alla rinfusa, di geometrie e di scarabocchi, di grandi viali come spade scintillanti, racchiuse in guaine più scure e di vicoli storti, dimenticati nelle tenebre. Una cozzaglia solenne e mai uniforme di cupole a cipolle e palazzi moderni, di catapecchie e bazar, di terreni vuoti e cantieri. Danny non resiste alla tentazione di fermarsi, seduta su uno degli anelli orizzontali che intrecciano il reticolo di travi metalliche. Contempla lo spettacolo che si stende sotto di lei, quel pesante groviglio di desideri e disperazione. Il fiume è più largo di come appare dalle rive, rischiarato da fari luminosi e dalle lampade delle fabbriche a ciclo continuo. Le parole di Kotick non si distinguono più, sono appena un sussurro frantumato dal vento. Danny raggiunge la base del terzo segmento, massaggia con due dita un punto del cranio vicino all'orecchio destro, poco sopra la nuca. Afferra uno degli aghi dell'apparecchio e lo infila in quel punto, sotto pelle, controllando che resti in posizione. Poi fa lo stesso, come allo specchio, sul lato sinistro del cranio. Ripete l'operazione con calma, per ognuno degli aghi. Con la testa biondo platino, irta di aghi e cavi, accende la neuroradio. Un debole ronzio si leva dalla scatola e dai contatti. Gira due manopole, alza un cursore. Si concentra sul messaggio e lo ripete come una preghiera, prima a fior di labbra e poi col battere del cuore. Il cervello trasmette la sua attività agli aghi infilzati nella cute. I cristalli di quarzo filtrano i rumori indesiderati. L'amplificatore aumenta a dismisura l'intensità del segnale grazie all'energia del nulla. L'antenna lo trasmette nello spazio siderale. Più volte, senza intervalli, una catena di parole sotto forma di radiazioni viaggia verso le stelle, per la scorciatoia che conduce a Nakun. Danny si piega sulle ginocchia, le gira la testa per lo sforzo. Mosca schizza in alto e scompare all'improvviso. Al suo posto, sotto i piedi, brilla il quarto di luna ormai sbiadito dall'alba. Un attimo dopo, tutto riprende la sua normale posizione e Danny attacca a scendere insicura, aggrappata al metallo come a un tronco galleggiante in mezzo alla burrasca. Colpi di tosse la costringono a fermarsi per prendere fiato. Braccia e gambe tremano per lo sforzo e la febbre. Oltre il vetro del finestrino, Natalia scruta la grande antenna, intreccio nitido di segmenti e cerchi sul foglio dell'aurora. Non è stato semplice trovare un'auto a quest'ora del mattino, quando anche gli ultimi nottambuli hanno scelto un posto dove dormire. I violini riposano nelle custodie e chi ha tirato tardi non si preoccupa più di tornare a casa, ma aspetta in strada la sirena che lo chiami al lavoro. Bogdanova apre lo sportello e corre con il cappotto slacciato verso la base della torre radio. Ha capito subito che Danny era diretta lì, quando ha scoperto che il suo apparecchio era sparito con lei. Natalia arranca, mentre con lo sguardo non smette di salire e scendere lungo le travi dell'antenna, fin dove i tetti la inghiottono e nascondono alla vista. La strada è scivolosa e bagnata, l'accesso alla torre è chiuso da un cancello. Dietro l'inferriata e la mole del marito si intravede un'ombra dal profilo incerto. Altri passi affaticati. I piedi sembrano disfarsi, il cuore salta un battito. Kotick tiene in braccio il corpo di Danny, il capo appoggiato contro il suo petto, le gambe che penzolano nel vuoto. Sasha si aggrappa alle sbarre, punta i piedi su quelle orizzontali e tende un braccio verso il culmine dell'inferriata. Kotick fa lo stesso, dall'altra parte, cercando di non mollare Danny, che ha intrecciato le mani dietro il suo collo. Spinge il corpo verso le braccia del padre. Sasha lo afferra. Rovinano a terra, sulla neve ghiacciata e sporca di fango. Bogdanov si rialza, raddrizza la schiena con un gemito e si china su Danny. Le accarezza il volto, incorniciato da un'aureola di fili. «Non muoverti, ti aiutiamo noi», le dice, sfilando con prudenza gli aghi dalla fronte. La ragazza schiude le labbra, ma le parole escono in ritardo, come un'eco rimbalzata su rocce lontane. «Ce l'ho fatta!» sussurra. «Ho mandato il messaggio!»